Quando stava dicendo aerobica ho pensato, oh signore, sta dicendo erotica, e dico, però magari anche quella, professor Barbanti, no? Perché Ma no? Grazie, Venanzi, pensaci tu, verrebbe da dire. esatto. Io mi sono distratto un attimo perché stavo facendo esercizi del pavimento No. Quanca l'oms fatera, la donna la vembela. Non ce ne ho uno, Ecco. marchigiano, mannaggia. Traduzione. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bond. James Bond. Mi stavi spiando? Ma no, gli amici non si spiano, lo dice anche la signora Merkel. Ben detto, a lei, mentre in questi giorni si sta parlando tanto di spionaggio e di intercettazioni, anche noi oggi a Cuore Denari parliamo e facciamo le spie. E da donna di cuore e denari siamo diventate le Bond Girl, ma ci sono luoghi e luoghi e spie e spie. A volte però anche le spie sono salutari, pensa un po'. È vero, sono i segnali, i campanelli d'allarme che ci danno il polso del nostro benessere o del nostro malessere. È vero, dottor Gargiulo, che è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Certo che è vero, assolutamente, ci sono spie positive. Ma la prima spia, non me ne abbiate con me, voi che siete donne, la prima spia è la nostra compagna di vita, la nostra moglie, oppure la donna che vive insieme a noi, ma non perché ci spii o voglia sapere quello che facciamo, anche, o almeno non in questo caso, anche, ma perché è la prima che si occupa della nostra salute e che magari va a raccontare al medico di famiglia che il marito o il compagno non sono proprio in perfetta forma, e da lì possiamo partire con un percorso di prevenzione particolarmente utile. E poi abbiamo gli occhi, abbiamo i capelli, abbiamo le unghie, abbiamo le analisi del sangue, abbiamo un controllo, ma insomma tante cose, ma credo che ne parleremo un pochino di più diffusamente nel corso della puntata. Certamente, oggi individueremo dalla testa ai piedi quelle spie da tenere sempre sotto controllo. 800 24 0024, se siete mogli, se siete single, se siete mariti, insomma intervenite, occorrente uno specchio, un centimetro e gli ultimi esami del sangue. Ma se a centimetro moglie ed esami del sangue si permettono delle soffiate, lo stesso non accade in condominio, perché il garante della privacy ha parlato chiaro. È visto? È vero, avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocon, dell'Associazione Italiana dei Condomini? Certamente, il problema della videosorveglianza, della riservatezza nel condominio ormai è un problema che corre giornalmente sul tavolo dell'amministratore e sul tavolo dei condomini. Oggi si lamentano i condomini, domani si lamenta l'amministratore. È un mezzo di protezione dei condomini, che però deve essere usato, insomma, con calma, con testa, se no altrimenti si trasforma in abuso. Certo, e noi faremo il punto sulle cose da dire e su quelle da non dire anche in condominio. 349-238-6666, se volete raccontarci anche con i vostri sms i vostri problemi di privacy in condominio, dall'attico alla portineria. E dalla testa ai piedi, soffiate, soffiate, soffiate al nostro numero verde e superate per un soffio la nostra barriera rosa. Salutiamo naturalmente anche tutte le centraliste, ma soprattutto raccontateci anche di quella volta in cui una spiata vi ha messo in grande difficoltà. Oppure, se siete in una condizione in cui non sapete se fare la spia o no, interpellateci, condividete i vostri racconti anche su Facebook e su Twitter. Ma Deborina? Ora iniziamo! Ascoltate, per il mese della digestione, Uliveto a soli 39 centesimi. Prezzo consigliato. Vi presenta Essere e benessere. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta. Al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina. Ma ahimè, assai più bella di te. Io non ho portato lo specchio perché oggi sarà Deborah lo specchio delle mie brame. Che compito impegnativo. Sta attenta a quel che dici, eh. Vabbè. Dottor Gargiulo, iniziamo a darci un occhio. Quali sono le spie che notiamo allo specchio? La prima spia sono i capelli. noi vediamo i nostri capelli, li controlliamo, soprattutto le donne, le mie pazienti donne li controllano e si accorgono immediatamente se ne perdono un po' troppi rispetto a quello che è il classico e la media stagionale. Consideriamo che in autunno c'è una perdita di capelli maggiore perché il capello è cresciuto più in estate, ma se questi capelli cadono a chiacchiera. Il dottor Gargiulo è finito, e forse è caduto. Quindi se pettinandovi o se notate che i vostri capelli se ne stanno andando un po' numerosi, tu li stai controllando? Io li controllo, sì, un po'. Devo dire che un po' ne perdo, ma ricrescono anche molto velocemente, mi sembra, meno. Ma non solo i capelli, guarderemo anche il colorito, guarderemo il bianco dell'occhio, insomma, perché... come dicevano le nostre nonne, la salute si vede in faccia. E voi cosa vedete guardandovi allo specchio, guardando magari in faccia una persona a voi cara? Le mamme sono spesso preoccupate del colorito un po' pallidino dei loro bambini. Intervenite, il dottor Gargiulo sarà presto ripescato e vi darà consigli e spiegazioni. Per mettere, come dire, un po' in piazza anche tutti quelli che sono questi segnali d'allarme. Tra l'altro è giusto anche metterli in piazza. Noi questo problema lo guardiamo da un altro punto di vista, per quello che riguarda chiaramente il tema denari, e il garante della privacy, andiamo un po' in condominio, ha deciso di mettere dei punti fermi. Iniziamo dalla cosiddetta bacheca dei morosi, avvocato Cirla, che, come le ho raccontato prima in privato, Nicoletta pensava che fosse ben altro invece di quello di cui andiamo a parlare questa mattina, perché immaginava appunto che l'amministratore di condominio fosse autorizzato a mettere in bacheca i nomi e cognome di tutti i fidanzati di un palazzo. Io quello non arrivavo, però dico, ma guarda che carino, la bacheca dei morosi, è nata una nuova coppia, mi sarebbe piaciuto. D'altronde io sono una donna di cuore, se no che sto a fare qua? È vero, è vero, questo dovrebbe essere lo spirito che dovrebbe regnare nel condominio, no? Nel senso, vogliamoci tanto bene, viviamo insieme, partecipiamo anche magari ai finanziamenti altrui. No, per morosi ovviamente si intende il debitore, no? Il condomino che non paga le rate condominiali e quindi mette in difficoltà anche gli altri condomini. Ecco che esplosa questo fenomeno della bacheca. È giusto che nel condominio si conoscano i morosi, chi non paga, anche in forza della nuova normativa che uscite, che magari dopo ne parleremo. La bacheca, tutto si può fare in condominio, ma nel rispetto dei tre principi generali che sono dettati dalla privacy: la liceità dei mezzi usati, la necessità e la cosiddetta proporzionalità del mezzo che si usa. La bacheca è proprio mettere alla berlina il condomino moroso, non fosse altro perché, anzi soprattutto, perché nel condominio entrano tutti, chiunque entra, l'uomo delle pulizie, le imprese di manutenzione e quant'altro, e quindi possono vedere estranei l'elenco dei morosi, il condomino moroso. Attenzione, perché non è che il condomino deve stare nascosto. Nel rendiconto condominiale, ad esempio, infatti, è opportuno che l'amministratore metta l'elenco dei morosi. Quindi in qualche maniera si vengono poi a sapere queste informazioni. Insomma, il problema è non metterle a disposizione appunto di estranei, credo. Esattamente, proprio un estraneo che entra, l'amico dell'amico che viene a fare visita, così non è consentito che veda subito all'improvviso chi sono i morosi nel condominio, perché viene violata la privacy. Quindi i panni sporchi si lavano in casa, in condominio. Esattamente. A proposito di panni sporchi, c'è un messaggio che ci cala proprio a pennello. Sono Laura da Como, vi scrivo sempre, ma visto il vostro programma di oggi mi sono resa conto che parla proprio di me, la mia vicina può fare le foto del mio giardino solo perché stendo i vestiti? No. Dipende poi che uso fa di queste foto. Esatto, perché se magari fotografa il giardino perché ci sono bei fiori e quant'altro, per l'amor del cielo non lede nessuna privacy. Però il fatto che venga fotografata magari la condomina mentre stende i panni, quindi viene violata esattamente la sua privacy, questo non è ammissibile. Quindi la vicina di casa deve astenersi dal fare fotografie. Il problema è come convincerla, tra l'altro, perché qua poi si deve andare a litigare. Nicoletta, io direi che abbiamo ripescato il nostro dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, eccomi. Buongiorno. Mi ha fatto cadere il, come si dice, il cuore nei piedi, ma mi sono subito ripresa. Grazie. Abbiamo in linea con noi Luca, che ci chiama da Milano. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io avevo proprio una domanda sul tema che stavate trattando, quello dei capelli, nel senso che io ho una figlia di 18 anni che da qualche settimana ha iniziato a perdere capelli in abbondanza, quindi volevo sapere se era indicatore di qualche patologia particolare, ora semplicemente. Che cosa si può fare, Luca? Esatto. Ma pettinandosi oppure passandosi le mani tra i capelli? Perché questo. Soprattutto nella doccia. Soprattutto nella doccia. Dottor Gargiulo. Allora, diciamo subito che una caduta di capelli in questo periodo, un pochino più abbondante, come dicevo, è abbastanza frequente. Però se è così imponente, soprattutto quando lava i capelli, io direi che un controllo delle analisi del sangue va fatto. Quindi un emocromo per vedere che non sia anemica in una ragazza in età fertile, è frequente la mestruazione abbondante e quindi è frequente l'anemia legata a questa mestruazione. Questo è il primo controllo da fare senz'altro. E poi controllare, far vedere magari stesso il parrucchiere, lo controllerà, se la caduta è una caduta diffusa o se è una caduta a chiazze. Se è una caduta a chiazze potrebbe essere anche importante capire se la ragazza magari in un periodo particolare di stress ha delle situazioni che possono provocarle un disagio esistenziale. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così. Dottor Gargiulo, si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, infatti parlano, tradiscono le nostre emozioni, ma ci danno anche altre indicazioni. Immagino che molti di noi si staranno guardando il bianco dell'occhio. Cosa possono vedere? Nel bianco dell'occhio possiamo vedere due cose. Intanto che il colorito del nostro occhio, l'aspetto del nostro occhio, non sia sufficientemente lucido. Il bianco deve essere abbastanza lucido, un po' come dopo che abbiamo pianto. Per quella luminosità che hanno gli occhi, significa che stiamo bene da un punto di vista delle vitamine, dell'apporto vitaminico al nostro corpo. Ancora dobbiamo controllare che quelle piccole venuzze che si vedono rimangano piccoline, ma non diventino particolarmente grandi, o peggio ancora, non ci siano delle zone, delle macchie rosse, delle emorragie vere e proprie. Quello potrebbe significare che la nostra coagulazione non funziona bene. Terza cosa, se questo bianco vira verso un bianco sporco o il giallo, è segno che il fegato non funziona bene e lì bisogna essere un po' veloci. O il fegato o la colecisti ci stanno dando qualche problema. Abbiamo accennato anche al colorito. In questa stagione siamo tutti pallidi, tendenti un po' al grigiognolo. A Milano direi proprio gialli, ecco. Ecco, ma dottor Gargiulo, il colorito, quando siamo noi donne struccate al mattino davanti allo specchio? Lei ride, perché ride, scusi? Perché voi donne siete belle sempre. Bravo. Nonostante quello che diciate dello specchio. Bravo. Della mattina, non è vero niente. Quando uno si sveglia con la sua donna accanto è sempre bella, quindi... Posto questo andiamo a parlare. Posto questo che ce lo sposiamo il dottor sì, Gargiulo. Va bene, ma tu sei già a posto, quanti ne vuoi, dai. Che diamo indicazioni dei colori. Il pallore diventa molto intenso, ma soprattutto quando le labbra diventano pallide, allora è sempre un discorso legato al ferro. Le donne, come dicevo prima, hanno proprio questa problematica della mestruazione che ogni mese gli fa perdere del sangue. Quando questo sangue è abbondante è evidente che rischiano l'anemia, quindi bisogna fare un controllo delle analisi del sangue e verificare quello. Ancora, il pallore può essere segno di una notte passata male, magari non si è dormito, la sera prima si è mangiato un po' troppo, problemi di digestione o problemi di russamento. Se durante la notte abbiamo avuto russamento, delle apnee notturne, non abbiamo dormito bene e spesso ci svegliamo pallidi, col viso un po' tirato, questo vale sia per le donne ovviamente ma anche per gli uomini. Ancora, il segnale potrebbe essere il segnale del proprio compagno che non ci ha fatto dormire, ma non per problemi che ci avrebbero fatto piacere, ma perché si è alzato più volte per un problema prostatico magari, o perché è lui che russa. Ecco, l'importanza di segnalare queste cose al proprio medico significa fare la spia, ma una spia positiva nei confronti del proprio compagno. Perché l'avvocato Cirla ride? Ha dormito bene stanotte, avvocato, da posto? No, rido perché sono questioni che, ahimè, capitano anche in condominio. A me personalmente è capitato un condomino che si lamentava perché sentiva il vicino che russava, ma forte, e poi sentiva anche altri... che andava in bagno e lo scroscione. Esatto, e poi magari delle effusioni, insomma si lamentava, quindi sono fenomeni che capitano in condominio. No, ci dica come è intervenuto in questa situazione, come l'ha gestita. Lui si diverte Sì, devo dire che ho avuto un certo imbarazzo nello scrivere, perché non sapevo insomma cosa come manifestare queste... questi rumori che sono emissioni comunque di rumore, naturale, che danno fastidio, però ci sono. Comunque Nicoletta ci ha dato tanti suggerimenti molto utili, sono già convinta che come me, quando andrò a casa e comincerò a controllarmi con molta più attenzione colorito, caduta dei capelli e bianco dell'occhio, lo faranno adesso anche tanti nostri ascoltatori. Farò una bella video registrata dei consigli di Nicoletta e poi metto questo video su Facebook. Posso farlo, Nicoletta? Me lo permetti? Allora, parliamo di spie e di spioni, quindi tu vuoi fare la spiona e io mi sentirò spiata un po' come quando vengo da te e c'è il videocitofono sì, che tu guardi chi è e io sono lì col mio faccione. Non ti piaci? Non sei soddisfatta? Per comunque niente. Adesso, a parte il videocitofono, che è lecito naturalmente perché collega direttamente il campanello esterno con l'appartamento della persona interessata, però il tema è l'utilizzo, avvocato Cirla, della telecamera di videosorveglianza, perché molti edifici evidentemente la installano per questioni di sicurezza, però non tutti i condomini poi sono contenti del fatto che venga documentato in questa maniera i loro passaggi, i loro spostamenti. Certo, nel condominio, dicevo prima, va usata con parsimonia e con prudenza il sistema di videosorveglianza, e qui, come si diceva prima, il garante è intervenuto più volte per regolamentarla, ad evitare proprio che se ne faccia un abuso. Oggi la videosorveglianza in condominio è diventata quasi una normale, quasi come l'ascensore, cioè in tutti gli stabili c'è questa videosorveglianza. Allora il garante è entrato dettando dei principi che vanno subito osservati. Quindi principi tipo di dove può essere installata? Esattamente, ma prima di tutto sulla necessità, dicevo prima, i principi generali della videosorveglianza, la necessità. Voglio dire, se ad esempio nel condominio c'è il custode, magari c'è un sistema di notturno di guardiania e quant'altro, ecco che la videosorveglianza diventa addirittura superflua, no? E quindi non è ammessa. Oppure nel luogo dove è messa la videocamera, in determinato condominio, se in un condominio per statistica non sono mai successi furti, non ci sono mai state fenomeni particolari, ecco che la videosorveglianza è un qualcosa di più, è un uso che viene fatto giusto così, perché ho la videosorveglianza. In questo caso non è consentita. Teniamo presente che anche la nuova normativa dettata in tema di condominio, che ha promosso a pieni voti la presenza della videosorveglianza, in realtà ha avuto un passato molto burrascoso, non a caso il legislatore è intervenuto, però non ha così eliminato gli ostacoli e i limiti che pone il garante sulla videosorveglianza, anzi tutt'altro, li ha mantenuti sacrosanti, dettando invece dei principi per quanto riguarda la votazione in assemblea. Il mio vicino scatarra per ore alle 6 di mattina con l'acqua aperta, che faccio, avvocato? Non lo so, qua chiudiamo, stendiamo un velo pietoso su questa situazione, Nicoletta. Mentre io leggo il messaggio di Ornella, sto diventando calva, sono andata da tutti i dermatologi, ho speso un capitale senza aver nessun risultato. Dottor Gargiulo, ci scrive Ornella, è vero che l'ossigenoterapia serve per ridurre la caduta? Dottore. Ma non abbiamo dati, prove scientifiche da questo punto di vista, quindi io lo farei un tentativo, perché in realtà si è già provato di tutto, io non sconsiglio mai di provare qualcosa in più, bisogna sempre fare un rapporto prezzo e quello che si può ottenere. I dati scientifici non li abbiamo, se i costi non sono eccessivi proviamo anche questo. 800 24 00 24, come avete capito la parola di ordine di oggi è spia. Dopo i mercati continueremo a raccontarvi le spie utili del nostro corpo, quelle che ci danno informazioni sul nostro stato di salute. Abbiamo detto prendete lo specchio, prendete il centimetro, andate a prendere anche gli esami del sangue e chiamate l'800 24 00 24. Deborah, noi continueremo anche a fare il punto sulle cose da non dire in condominio. 349 238 6666, non fate le spie. Anche voi amministratori, dire che un condomino è singolo se va in vacanza in un certo periodo ad esempio è divulgare un dato sensibile. Diteci, raccontateci se vi è capitato. Ci sono due ascoltatori pronti ad intervenire, sono Thomas da Modena e Laura da Torino. Direi, Nicoletta, di sentirli dopo la nostra pausa, avranno la gentilezza appunto e la pazienza di aspettare. Direi che quindi possiamo fermarci e ricordare che vogliamo anche dare una mano a chi in una certa situazione della sua vita non sa se fare la spia oppure tenere la bocca chiusa. Lo dico o non lo dico? Ah già, aspetta che c'è un messaggio proprio su questo. Un'ascoltatrice scrive questo SMS: ho visto il ragazzo della mia amica in atteggiamenti molto amichevoli con un'altra donna, sono io che penso male, devo dirle qualcosa o faccio finta di niente. Qua allarghiamo a 360 gradi il nostro tema di questa mattina. Cuore e denari. Debora, ora che so tutte queste cose, la bacheca dei morosi, tutte queste cose che mi ha detto l'avvocato Cirla e che tu hai spifferato anche tutta la mia ignoranza, diciamo così, adesso io non ti vengo più a trovare, perché entrare in un condominio tra videocamere, bacheche, portinai... Quindi ti sei spaventata? Sì, insomma ti senti diciamo un po' sotto pressione. Ma proprio tu mi dici questo, che dici sempre di misurarla la pressione, l'hai misurata anche a me l'altro giorno, mi hai chiesto quanto avevo. Dottor Gargiulo, vede cosa faccio? Le misuro anche la pressione. 70-120, sono perfetta. Beh, magnifico, sì, veramente perfetta. D'altra parte è importante, dottor Gargiulo, misurare. È fondamentale. Perché è fondamentale. La chiamano il killer silenzioso, perché anche se noi abbiamo la pressione alta, non ce ne, se non la misuriamo non ce ne accorgiamo, insomma facciamo molta fatica a farlo, perché lavora, può arrivare fino a produrre un danno d'organo, ma intanto se noi non la teniamo sotto controllo, non la misuriamo il problema, non lo diagnostichiamo e quindi non possiamo correre ai ripari. Per questo ai nostri ascoltatori chiediamo: qual è l'ultima volta che vi siete misurati la pressione? Avete un'amica come a Deborina che vi dice: Deborina, è ora di misurarti la pressione. Ce l'avete? 800 24 00 24. Dottor Gargiulo, perché è importante? Perché non dà sintomi, come ha detto giustamente, quindi non aspettiamo di avere il mal di testa o il sangue che esce dal naso, questi disturbi che l'immaginario collettivo riferisce alla pressione, che poi spesso non sono dovuti alla pressione, perché questa nostra pressione alta, viaggiando silenziosamente, può danneggiare le arterie in maniera importante. Se poi si unisce un po' di colesterolo, diventa un fattore di rischio per le malattie cardiocerebrovascolari, quindi per tutti quei danni che una volta instaurati sono veramente problematici. Basta poco, una misurazione di pressione ci porta via pochi minuti, la possiamo fare in casa con gli apparecchi che ormai girano. Raccomandiamo sempre di non usare l'apparecchio da polso, ma l'apparecchio da braccio, perché è più preciso. La possiamo fare dal nostro medico di famiglia quando andiamo a trovarlo, magari per farci prescrivere le medicine per la mamma, per il papà. E è facile farsi misurare una pressione, e almeno una volta l'anno, io direi, in un soggetto di età compresa fra i 30 e i 50 anni, almeno una volta l'anno un controllo di pressione bisogna farlo. Poi sopra i 50 un pochino più spesso, e sempre più spesso, perché col passare degli anni la pressione tende un po' ad aumentare. I valori che ci tengono tranquilli sono quelli fra 135 e 85, 135 è la massima, la pressione sistolica, 85 è la minima, la diastolica, ci tengono assolutamente tranquilli. Tra 80, sopra gli 85 fino ai 95 o sopra i 135 fino ai 150 abbiamo quella fascia cosiddetta borderline, dobbiamo cambiare qualcosa, probabilmente un po' di attività fisica ci può aiutare, un'alimentazione migliore, via il sale, insomma qualcosina dobbiamo farla per correggere. Se poi superiamo questi valori, allora il nostro medico ci potrà consigliare dei farmaci che riporteranno la pressione a livelli normali e eviteranno quel danno sulle arterie che il sangue che viaggia sotto pressione può provocare. Dottor Gargiulo, dato che oggi parliamo di spie, spioni e spiate, ricordiamo anche gli altri numeri di cui abbiamo bisogno, che i nostri ascoltatori possono comunicarci all'800 24 00 24. Altri valori? Beh, altri valori ovviamente il colesterolo. Colesterolo, soprattutto il colesterolo LDL, quello cattivo cosiddetto, sono valori importanti perché ci danno la dimensione di quanto grasso circola nel sangue, e questo grasso si va ad appoggiare sulle pareti delle arterie e quindi può rovinarle, può inciderle provocando la placca aterosclerotica. Una sorta di ruggine, dottor. Una sorta di ruggine, brava, questo è un ottimo. Le piace? Paragone. Molto, mi piace molto, perché in realtà l'arteria arrugginita può rompersi e quindi creare un aneurisma, o può piano piano diventare talmente dura che non riesce più ad espandersi e a sopportare i cambiamenti di pressione fisiologici. Ancora un dato importante è la glicemia. lo zucchero nel sangue è un'altra spia estremamente significativa del fatto che le nostre arterie, sempre, che poi sono un po' il sistema che porta il nutrimento in tutto il corpo, quindi importantissimo, stanno soffrendo sotto carico. Lei prima parlava però di un centimetro, non dimentichiamoci che il giro vita è importantissimo. Noi tante volte ci pesiamo. Adesso misurerò anche l'avvocato Cirla, tanto che qua dopo la trasmissione. Ma sei in perfetta forma. Becco anche lui, dottor Gargiulo. Finché in tempo. Nicoletta gli mette le mani addosso. Che è notoriamente una spiona, poi racconterà a tutti il giro vita dell'avvocato Cirla. Lo abbraccio, se faccio fatica vuol dire che siamo fuori forma. Quello è un bel sistema per misurare il giro vita, devo ricordarmelo con le mie pazienti. Va bene. Abbracciare i mariti e se arrivate bene vuol dire che non hanno la vita, il giro vita aumentato. Comunque, a parte scherzi, il centimetro messo intorno alla vita, nel punto in cui la nostra pancia è un po' più prominente, non variamo abbassando, alzando questo centimetro, ci dice che cosa abbiamo di grasso sottocutaneo, che è il grasso pericoloso, quello che poi dà origine al colesterolo. Numeri 88 per le donne, quindi è il numero massimo, sotto 88, 102 per gli uomini, sotto i 102 stiamo tranquilli. Allora, avvocato Cirla, ha sentito tutti questi consigli, se il medico attraverso questi esami ha il nostro stato di salute, ne ha la completa padronanza, possiamo anche dire, in un parallelo un po' bizzarro, che anche l'amministratore di condominio è un po' il medico appunto del condominio stesso? Le piace questa similitudine? Sì, mi piace, perché io l'ho sempre così chiamato il timoniere del condominio, invece il medico del condominio è appropriato. Nel senso che... Anche perché deve sempre affrontare le patologie del condominio. È vero, deve stare attento, deve prevenire e deve curare. Tutto perfetto. Deve fare. Direi che l'amministratore come medico del condominio è una definizione appropriata, perché deve intervenire quando vede che il malato condominio comincia ad avere accenni di vecchiaia, ad esempio. Parlo delle ristrutturazioni e parlo anche delle necessità, come ad esempio quella che stiamo trattando oggi della videosorveglianza. Credo che da buon medico del condominio sia l'amministratore che debba dare l'input ai condomini, sia l'amministratore che debba dare messaggi all'assemblea a fine di dire: carissimi condomini, guardate che per una serie di eventi, per una serie di casi che sono capitati in condominio, io come medico del condominio consiglio di installare degli apparecchi. E deve anche consigliare come mettere questi telecamere, così come il medico prescrive della ricetta, prendere una volta al giorno una pastiglia, la sera, lo stesso l'amministratore deve dire: guardate che per il vostro condominio servono una, due telecamere e non ad esempio buttarsi in terrorismo puro, che sono ad esempio le telecamere finte, certo. No? Che sono state capitano anche dell'Egitto. Queste, ah sì? Come no? Perché proprio ci sono per sensibilizzare le persone. In effetti è vero, noi quando ci troviamo di fronte a una telecamera cambiamo atteggiamento, cambiamo modo di comportarsi. Guardi, la interrompo subito. Abbiamo perché c'è Gianluigi da Firenze che parla proprio dell'installazione di una telecamera di videosorveglianza per questioni preventive. Gianluigi, buongiorno, all'800 24 00 24, ci racconti? Buongiorno, allora niente, saluto tutti quanti, complimenti per la trasmissione, vengo velocemente. Io abito in una zona semiperiferica, non isolata ma abbastanza isolata, piano terreno, in una palazzina di 4 unità. Abitando a piano terreno, ho installato, ho avvertito l'amministrazione di condominio, metto l'impianto di videosorveglianza a scopo preventivo, perché la paura è sempre tanta, specialmente nelle ore notturne. Ho l'allarme in casa, ho le persiane allarmate perché ti potrebbero entrare in casa di notte, perché è molto facile, basta scavalcare un cancello di un metro e sono in casa mia. Niente, a questo punto sentivo prima l'avvocato che diceva: dove non si sono mai verificati eventi straordinari, forse la telecamera non deve essere installata. A casa mia non si sono mai verificati eventi straordinari, però l'ho installata per scopo preventivo. Poi lì ho avuto dei condomini contenti e diciamo due contenti e uno scontento, e io ho posizionato queste telecamere dove non si riprendono le aree comuni. Sono in regola? avvocato certo, Cirlo. Anche per il posizionamento di videocamere singole, diciamo, del singolo condominio, quindi usciamo dall'aspetto condominiale perché entriamo nella proprietà esclusiva, il condomino può mettere queste telecamere, ma attenzione, non deve assolutamente riprendere le parti comuni, perché spesso cosa capita? Che pare un condominio normale, il condomino mette davanti alla sua porta di casa una bella telecamera, di modo che passano gli altri condomini, io so vita, morte, miracoli di chi passa, di chi entra, dicendo questo è sbagliatissimo. No. Quindi attenzione alle telecamere singole, perché se solo riprendono il condomino che passa davanti all'atrio, ecco che c'è violazione della privacy. Andiamo a Modena, che c'è Thomas. Certo, certo, che sta aspettando, poverino, anche da un po', e ci ripropone il tema della bacheca degli innamorati. Quella che piace a me, bravo Thomas. Thomas, buongiorno, in realtà lei intende ben altra bacheca, vero? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sarei molto favorevole se questa bacheca esistesse nei condomini. Io sono un artigiano, mi occupo di fare piccoli e medi interventi nei condomini. Sapere a priori il condomino che fa fatica a pagare le rate della diciamo condominiale, sicuramente si fa più attenzione, perché se non paga la rata condominiale ha delle difficoltà economiche, sicuramente l'intervento che fa spesso non te lo paga o fa fatica a pagarti. E vabbè, Thomas, ma è un aiuto in che senso? Voglio dire, se una persona è in buona fede e non riesce a pagare, ne ha già parlato con l'amministratore di condominio e magari si è accordato per un pagamento dilazionato per sistemare diversamente la questione, qual è il vantaggio di metterlo a conoscenza di tutti questa circostanza? Tenerlo più marcato quando è ora di farsi pagare, no? Mettiamo la berlina. Ma insomma, se l'amministratore di condominio è bravo nel suo lavoro, ha già fatto tutto quello che deve fare, non è necessario mettere avvocato Cirlo. Ma poi anche sotto questo aspetto parliamo della protezione dei fornitori. Ci ha pensato il nostro buon legislatore con la riforma, perché addirittura impone all'amministratore di comunicare ai fornitori del condominio l'elenco dei condomini morosi, quindi in questo caso non c'è nessuna privacy da proteggere, perché è proprio la legge che lo dice. Il fatto invece di esporre i morosi proprio in bacheca è proprio un po', passatemi il termine, dagli all'untore, insomma, no? Sì. Che non è giusto, perché uno può avere tantissimi problemi, magari è moroso, esatto, provvisorio, esatto, e si trova messo. E poi ribadisco, basta frequentare l'assemblea di condominio, e questa è un'informazione che si ha già, poi se uno non ci vuole andare, vuole conoscere questa cosa, sì, con vie diverse, bisogna insomma fare valutazione di tipo diverso. Dottor Gargiulo, ci vuole coraggio per frequentare le assemblee di condominio, gli ipertesi devono stare un po' alla larga, starne lontanissimi. Allora, è uno stress eccezionale. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a metterci a disposizione, se volete, le vostre esperienze a 360 gradi sulle spie di ogni tipo, quelle che lanciano il vostro corpo e quelle che invece sono un po' così all'interno di un condominio, spie di altro genere. Non so, Nicoletta, se dobbiamo andare in pausa perché non vedo l'orario. Possiamo prendere magari una telefonata e rispondere dopo. Gabriele. Quante ne so. Gabriele da Venezia, buongiorno. Signora, buongiorno. Senta, io volevo sentire il dottor Giulio, io sono iperteso, no? Ho la pressione abbastanza alta, 160, 170, 100, 110, no? La minima. Se non che io prendo già le pastiglie da 80 mg una al giorno, sì. E adesso il dottore me l'ha cambiata, me l'ha messo a 160, però da una settimana a 160 ancora non riesco a rimediare a questo fatto. La perché, pressione allora, 170 abbiamo, Gabriele, abbiamo preso tutti i dati, bisogna darsi un po' di tempo e noi anche ci prendiamo il tempo per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito insieme al dottor Gargiulo, l'avvocato Ciurla e la donna di cuore di Denari. A tra poco. Cuore e denari. Spie e spioni, 800 24 0024. Potete come sempre seguirci anche su Facebook e su Twitter. In linea con noi abbiamo Gabriele da Venezia che attende una risposta dal dottor Gargiulo per questa pressione che nonostante i farmaci non riesce ad arrivare ai valori ottimali. Dottor Gargiulo. Ma direi che intanto l'aumento del dosaggio del farmaco che già prendeva è corretto, sicuramente è un buon intervento. Oggi abbiamo un po' più la tendenza magari ad associare un secondo farmaco, ne abbiamo a disposizione parecchi e quindi invece di aumentare la dose associamo un secondo farmaco. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, perché non è che la pressione scende giustamente, non scende bruscamente, quindi bisogna aspettare un pochino di tempo. Una settimana, 10 giorni sono i tempi giusti per dire se l'azione terapeutica fatta dal medico ha funzionato. In ogni caso abbiamo 5 classi di farmaci, senz'altro associando un secondo farmaco riusciremo a portare a condizioni ottimali questa pressione. Consiglio ulteriore, sì. Niente sale e un po' di attività fisica. Mezz'ora al giorno può ridurre di 5-10 minuti. E toglie il dottor Gargiulo di torno, mi verrebbe da dire. Allora, Nicoletta, ci è arrivato un sms in risposta a quello di prima su un presunto tradimento del ragazzo di un'amica. Regola delle 3 scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, questa è una filosofia che va molto stamattina fra gli sms dei nostri ascoltatori. Ma c'è anche chi suggerisce di metterle un po' la pulce nell'orecchio. Boh, tu che faresti? Sono... Dipende forse intanto dal grado di amicizia con la persona interessata. Sì, aspetterei di vederlo una seconda volta forse. E voi cerchiamo di dare dei buoni suggerimenti e c'è chi dice che i panni sporchi si lavano in casa e a proposito di casa... Torniamo in condominio. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi presenta Salva Danaio. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un cornuto! No, lei deve ancora tirare! Eccole! 1, 2, 3! Nicoletta, altro che pressione alta, quella della quale abbiamo parlato fino a poco fa, è l'assemblea di condominio a scatenare i nostri istinti peggiori. A me non capita, per fortuna, però ce ne sono di assemblee molto vivaci, sì, Nicoletta. Devo dire che si dà spettacolo, avvocato. Sì. Uno spettacolo che a volte qualcuno vorrebbe filmare, no? Con una bella telecamera. Abbiamo parlato di quelle che si possono installare fino a poco fa, magari di fronte alla porta d'ingresso per evitare che entrino dei ladri, ma si possono filmare le assemblee di condominio, avvocato? Dunque, no, in linea di massima. Si può fare se tutti i condomini sono d'accordo, il che è un po' difficile. Un obiettivo difficile da magari raggiungere. Per evitare la verbalizzazione manuale, che ne so, ecco, scritta. Sì, che sarebbe comodo per poi riportare, però già ad esempio la registrazione è più ammessa, non ci sono problemi, basta che il presidente comunichi che è video, è registrata l'assemblea e non ci sono problemi. Per la video invece, la registrazione video dell'assemblea, ci vuole l'unanimità dei presenti, perché assolutamente se no è violazione della privacy. Allora, 800 24 00 24 il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi sulle spie di ogni tipo, quelle che lanciano il vostro corpo ma anche quelle che non accettate che vi siano in condominio, nella condivisione appunto degli spazi comuni. Anche sentiamo qualche ascoltatore. Nicoletto, volentieri. Hai delle domande? Lello da Chieti, Ombretta da Viterbo e poi una domanda per l'avvocato. Lello, buongiorno. Lello, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi chiamo Lello Paolini e chiamo dalla provincia in Abruzzo, dalla provincia di Chieti. Lei ci ha detto tutto, non si preoccupa della privacy. Ci ha detto anche il suo cognome, che è una cosa molto inconsueta che capita tra i nostri ascoltatori. Lello, mi dica perché... anche se si è misurato la pressione, così il dottor Gargiulo è contento. Sicuramente sì. Allora, bravo. Io non è vero, non l'ha misurata. No, l'ho misurata nel senso che quando parlo, allora se parli emotivamente aumenta il battito, le pulsazioni, certo. Sicuramente. Io chiamo per questo motivo, veramente vorrei fare 2 domande. La prima è che c'è una proprietà di un appartamento che senza dire niente a nessuno ha installato al secondo piano in pratica una videocamera. È lecito? Lo poteva fare senza nessuna autorizzazione o meno? Avvocato Cirla? Sì, la può fare se nei limiti, nel rispetto dei limiti fissati, quindi che il raggio di ripresa della sua telecamera è estremamente limitato, non va a toccare le parti comuni del condominio. Ma la sua porta, praticamente. Sostanzialmente prende la sua porta. Non aveva una domanda sulle tabelle millesimali, perché quella era che mi incuriosiva di più. Mi dica. Ecco, per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, ad oggi, nonostante tutte le vie percorsi, manca in questo condominio una tabella ufficiale redatta da, cioè la perizia redatta da un vero professionista. Io le parlo perché ci sono dei contenziosi, che in pratica ci sono delle cause in corso, però ad oggi in pratica siccome ci sono dei condomini che fanno maggioranza, evitano in pratica che venga fatta questa revisione dei tabelli dei millesimali. Abbiamo messo gli avvocati, tutto quello che... Quindi le vorrebbe metterle in bacheca questa tabella, Lello? Esatto, mettere in bacheca questa bacheca e informando tutti i condomini che in pratica manca questo documento. Lello, ma io credo che i condomini lo sapranno già, come ne è consapevole Lello, sapranno anche già tutti gli altri. Che vantaggio ci sarebbe da diffondere a tutti l'informazione mettendola in bacheca? Certo, è un argomento che va discusso in assemblea. Non è che entra, che ne so, il fornitore, l'uomo della spazzatura, ad esempio, e capisce che il condominio non ha la tabella millesimale, non interessa nulla. Cioè, la bacheca deve essere fatta, deve essere usata per gli avvisi generali. Quindi, che ne so, domani mattina viene tolta l'acqua per manutenzione, ma non delle tematiche che invece devono essere svolte in assemblea, quale quella, ad esempio, delle tabelle millesimali. Dottor avvocato, mi scusi, ma dalla donna di cuore, se io volessi avere un po' di sostegno morale e voglio portare con me alla mia prossima riunione condominiale la mia amica Deborah, che è esperta e mi fa fare anche bella figura, le lascerei tutti a bocca aperta. Posso farlo o no? Ci sono dei problemi, anche qua, giustamente o ingiustamente, non spetta a me dirlo, però il garante è intervenuto dicendo, dettando un principio generale, che gli estranei non possono partecipare all'assemblea, se non ovviamente stanni con la delega in rappresentanza del condomino. Quindi, nel caso in specie, Deborah non può venire ad assistere se non con un compito ben preciso, magari chiamata dall'amministratore come consulente del condominio. Diventa troppo lunga. Mi basta anche la mia? Non è che proprio ho tutta questa smania di assistere ad un'altra assemblea. Senti un po', tu che prima hai interrogato sul girovita il nostro avvocato Cirla, io adesso invece vado dal dottor Gargiulo, perché voglio sapere qual è l'ultima assemblea di condominio a cui ho partecipato e se è un soggetto attivo, insomma, se pone delle questioni oppure così non è interessato, paga e basta. Ahimè, sono un soggetto totalmente passivo, pago e basta. E quindi insomma non mette mai in discussione anche le decisioni del suo amministratore, non si sarà neanche accorto se c'è una telecamera installata che magari così controlla i suoi movimenti, i suoi spostamenti. Ma io onestamente non me ne sono accorto, non ci guardo, ma devo dire che non ho nessun problema, anzi io sono favorevole alle telecamere messe ovunque, perché tanto credo che sia più utile essere osservati piuttosto che non essere osservati e magari rischiare. Ci sono delle domande, adesso a parte le domande che le ho fatto io così un po' per alleggerire, altre domande di altri ascoltatori per il dottor Gargiulo. Prendiamo un'ascoltatrice, prendiamo Paola da Milano. Volentieri, buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Volevo porre questa domanda. Col mio medico di base abbiamo impiegato un pochino a regolare la mia pressione, perché abbiamo capito, anch'io l'ho capito e non solo il medico, che mi fa effetto se la pastiglia mi fa effetto se l'assumo la sera prima di andare a dormire. Sì. E questo mi ha incuriosito, perché ho pensato che fosse una cosa psicologica. Dottor Gargiulo, la domanda di Paola è molto precisa e molto puntuale, ha messo l'accento su una cosa importantissima, quella che noi definiamo cronoterapia. Perfetto. Nel senso che noi abbiamo necessità di assumere il farmaco nel momento in cui ce n'è più bisogno, soprattutto per quello che riguarda la pressione. Assunto la sera, il farmaco va a proteggere, generalmente durano 24 ore questi farmaci, però va a proteggere nel momento di picco massimo il momento più drammatico, che è quello che va dalle 4 alle 6 della mattina, l'ora più pericolosa per gli infarti, appunto. Quindi quindi la pasticca, la compressa su un trasera ci aiuta a proteggerci proprio in quel momento e probabilmente trascina il suo effetto benefico durante il giorno, per cui la signora riesce ad avere una pressione più controllata. È un'osservazione molto giusta. E quindi, dottor Gargiulo, da questo che cosa possiamo dire e dare come consiglio ai nostri ascoltatori che hanno magari iniziato una terapia per l'ipertensione? Se per caso si svegliassero al mattino, nelle prime ore del mattino, quello sarebbe il momento ideale per misurarsi la pressione, per vedere se la terapia li copre. E ricordiamo che oggi, questo lunedì, che è un lunedì un po' particolare con il cambio dell'ora, è un lunedì che a differenza degli altri, che sono un po' a rischio per il nostro cuore, questo con il cambio dell'ora ci fa rischiare di meno. Allora, sì, no, volevo solo leggere il messaggio di Paola al 349-238-6666 che dice: faccio il portiere in un condominio di 130 appartamenti, non dico altro. Il signore degli spioni, Paolo, naturalmente chissà quante ne sa il nostro ascoltatore, che chiaramente ho apostrofato così in maniera affettuosa. Cuore e denari. Sicuramente di uno dei nostri telefilm preferiti, l'americana Friends, e questo per parlare appunto di un tema questa mattina che sta a cuore a molti ascoltatori. Parliamo di spie e spioni, parliamo delle spie del nostro corpo e parliamo anche delle situazioni di privacy che vanno rispettate all'interno di un condominio, quindi un tema a 360 gradi per i nostri ascoltatori, che possono chiamarci all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Abbiamo individuato le spie da ascoltare, quelle da zittire, e stiamo continuando a farlo ricevendo anche i vostri messaggi. Naturalmente, allora diamo la parola a Giulio che ci sta aspettando da Brescia. Vediamo che spiata ci fa. Giulio, buongiorno. Buongiorno dottoressa Nicoletta, buongiorno dottor Gargiulo e alla nostra cara Debora, buongiorno a tutti. Io non sono dottoressa, sono infermiera. Buongiorno. Meno male. Io vi conosco tutte e tre. Comunque, grazie. Volevo raccontare questo fatto velocemente. Io ho 65 anni, prendo la pastiglia della pressione e un giorno, un anno e mezzo fa, ero a Pesaro, mi alzo al mattino, la faccia gonfia, labbra gonfie, vado in ospedale alle 4 del mattino, mi dicono: cosa ho mangiato? Pesce. Sì, è il pesce, la reazione. Da quel momento, per un anno, io ho sempre avuto le labbra gonfie e le ultime due volte la faccia come un pesce palla, gonfissimo. Sono stato all'allergologo, sono andato agli ospedali, mi hanno detto c'è da fare esami, super esami, ho rifiutato, ho dichiarato poi al mio medico, dopo un anno, tolgo la pastiglia da pressione, io non la voglio più. Tolta la pastiglia, sono stati due mesi, io sono tornato un essere umano, normale, dopo un anno di cortisone e di... antistamico. Ma dottor, mi scusi Giulia, ma la sua pressione nel frattempo come va? La mia pressione, io ho anche io lo sfigliometro, come si chiama, la uso, a volte mi va 90-140 perché faccio un lavoro un po' che vado in giro a programmare per gastronomia, insomma si mangia. Insomma, certo. Dottor Gargiulo, allora Giulio ci racconta una storia che è simile a molte di storie di alcuni ascoltatori che per una storia o per l'altra, scusi la ripetizione, hanno deciso di non prendere più il farmaco per la pressione. Dottor Gargiulo? Niente, abbiamo questa mattina qualche problema appunto con le telefonate, ma vedi ci che capita. Dobbiamo affidarci al nostro avvocato, che avvocato è una garanzia. Cirla. Adesso poi l'abbraccio, prendo il giro giù le mani dall'avvocato Cirla, ti controllo. Avvocato, stiamo affrontando il tema del condominio e la privacy. Peraltro segnalo, ma l'abbiamo già messa a disposizione dei nostri ascoltatori su Facebook, la guida che è stata elaborata proprio dal garante per la protezione dei dati personali, il condominio e la privacy. Abbiamo parlato della bacheca, della bacheca dei morosi, che non è quella degli innamorati. Abbiamo parlato della video, della telecamera appunto per la videosorveglianza, per proteggere tutto il condominio, ma molto più spesso per proteggere un singolo appartamento, e qualche volta queste installazioni vengono fatte in maniera un po' leggera e non rispettano appunto tutti gli altri vicini di casa. Quali sono le altre questioni appunto di privacy che bisogna tenere a mente nella vita di condominio? Ecco, quando il condominio va a installare queste videocamere ha due punti fermi da rispettare. uno innanzitutto deve rendere noto a chi entra in condominio che è videosorvegliato, quindi deve esporre delle targhette, sì, per dire guarda stai attento che ti sorveglio. E qui sinceramente è un po' una contraddizione, perché i condomini l'hanno deliberato, mm-hmm, e quindi sanno benissimo. Il terzo estraneo che entra in condominio, se entra normalmente, che sia videosorvegliato o meno, non ha nessun interesse, nessun problema a fare problemi. Il problema ce l'ha il malintenzionato, e quindi arrivare al punto di dire guarda che ti sto riprendendo al malintenzionato è un po' un controsenso. Beh, certo. Però il nostro garante dice bisogna avvisare tutti. Secondo punto è devono essere riprese istantanee, oppure che vengono conservate per un massimo di 24 ore, non devono essere tenute nel cassetto dell'amministratore. Questo è importante perché sennò altrimenti si cade in violazione. Faccio solo una lettura veloce di un messaggio che è molto interessante ed è molto vero, perché l'ascoltatore dice nei condomini di ultima generazione la privacy non esiste perché le mura sono di carta. Effettivamente forse la qualità qualche volta degli edifici è discutibile, quindi uno starnuto al pian terreno si sente al terzo piano, e qua non è che ce la possiamo prendere con i nostri vicini. No, assolutamente, ecco. La privacy è tutela dell'immagine soprattutto. Infatti. No. Però noi siamo riusciti a recuperare il dottor Gargiulo, sì, che oggi mi fa fare una vita un po' difficilina. Dottor Gargiulo, allora questo lo farmaco... puniamo, lo mandiamo all'assemblea di condominio la prossima volta con un intervento da fare. No, perché dottor Gargiulo misurerà la pressione a tutti i suoi condomini per penitenza. Stavamo parlando prima col nostro ascoltatore che diceva che aveva sospeso la terapia. È importante sottolineare che le terapie non vanno mai sospese, nel senso che bisogna sempre controllare con il proprio medico e decidere insieme, soprattutto tenendo sotto controllo la pressione. Nel caso specifico forse c'è stata una, quella che chiamiamo reazione crociata, probabilmente qualcosa che ha mangiato gli ha fatto allergia, e questa allergia è andata a dare un'allergia crociata con il farmaco. Ora è chiaro che a quel punto bisogna cambiare farmaco, però bisogna anche cambiarlo insieme al proprio medico, perché il rischio di una pressione a 90 la minima non è un rischio immediato, ma a lungo andare può danneggiare seriamente le arterie. E poi tenete un po' sotto controllo la differenza tra minima e massima, vero dottor Gargiulo? Esatto, non deve essere molto ampia. Deve essere abbastanza ampia, perché in realtà delle differenziali troppo ridotte significano uno stress per l'arteria continua. Diciamo una differenziale di 20-30 mm di mercurio, ecco il 90-120, 95-130, insomma sono valori un po' alterati. La differenziale deve essere almeno di un 40-45 mm di mercurio. 800-24-0024, voi continuate a spifferare al nostro numero verde i motivi delle vostre chiamate, superando un po' la barriera rosa, e noi intanto però, Deborah, sì, abbiamo in sospeso il nostro tormentone di oggi. Certo, l'amica che ha visto il fidanzato dell'altra amica in atteggiamento un po' equivoco con una terza persona, che deve fare? Deve dirlo? Non deve dirlo? Lo dico o non lo dico? Ma intanto ce lo facciamo dire dalla dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lo dico o non lo dico? Stiamo discutendo di questo con i nostri ascoltatori, poi lo chiederemo anche al dottor Gargiulo e al nostro avvocato. Ma dottoressa Torti, c'è chi suggerisce la legge delle tre scimmiette. Adesso, al di là del suggerimento e del problema posto dalla nostra ascoltatrice, so una cosa, ma faccio finta, no, di non saperla, non dico, non sento, non parlo. C'è chi invece suggerisce, vabbè, ma metti un po' la pulce nell'orecchio, chissà mai che... Oppure c'è chi suggerisce, ce ne sono alcuni messaggi, di affrontare direttamente lui della situazione, dirgli, oi, cosa stai facendo? Esatto, guarda che t'ho visto. Cosa dice, allora, dottoressa? Io direi che subito possiamo escludere l'affrontare lui della situazione, la tendiamo un attimo in stand-by come soluzione e poi la rivaluteremo alla fine, sì, perché comunque ci porterebbe fuori strada, comunque lontani dall'obiettivo. E qui faccio una brevissima introduzione su come ci si comporta generalmente rispetto a quello che è l'intervenire oppure non intervenire. Sì. Lo dico o non lo dico? Allora, ricordiamoci che la tendenza ad aiutare, quindi a proteggere noi stessi e gli altri, è innata, è istintiva. Quindi tutto quel comportamento di protezione che parte dalla corteccia primitiva, che si osserva nel mondo dell'umano, c'è anche nel mondo animale, per esempio. a proposito di scimmiette, è stato riscontrato come in specie di scimpanzé, che sono molto vicine agli esseri umani, i bonobo, ci siano queste tendenze a consolare quando si assiste a un comportamento aggressivo, sì, con vicinanza, abbracci, contatti. Ora, noi siamo in un contesto in cui non si tratta di un'aggressione vera e propria, però è un comportamento che potrebbe ferire qualcuno che ci è a cuore. Allora, in questo caso, quando assistiamo a un evento in cui qualcuno potrebbe essere ferito o danneggiato, per esempio il ragazzo della mia amica, eccetera, eccetera, abbiamo l'istinto di proteggere la persona a noi cara. Ma attenzione, qui si parla di reazione, cioè un istinto, qualcosa di veloce e poco pensato. Quindi, noi che siamo invece esseri umani abbiamo bisogno di pensare alle conseguenze delle nostre azioni. Primo punto. Quindi, invece di parlare di dire o non dire, io direi più che altro che si può pensare a un aiuto mirato, che non ha solo il fine di proteggere, ma anche quello di capire la situazione. E quindi, dottoressa Torti, questa è una regola che dobbiamo applicare tutte le volte in cui siamo nell'imbarazzo, lo dico o non lo dico. Noi non dobbiamo dire faccia la spia, o sono spione, oppure se sto zitta la danneggio, ma mi devo chiedere, il mio aiuto è mirato, come posso fare? Esatto, come posso fare? Capito. Quindi, io potrei dire che bisogna tenere a mente alcuni punti molto velocemente. Sì. Innanzitutto che abbiamo un istinto innato alla protezione, quindi tenerlo a mente è proprio un istinto molto veloce. Abbiamo una tendenza a reagire che va controllata con la razionalità, perché noi, se noi in questo modo cerchiamo anche in qualche modo di interpretare i fatti, e questo è un errore in cui si può cadere, dobbiamo tenere a mente il fine, ovviamente, delle nostre azioni, con le conseguenze che questo può causare nella rete delle relazioni, che magari hanno il loro equilibrio in realtà. Quindi certo, noi andiamo a intervenire in un equilibrio che non conosciamo. Meglio farsi gli affari propri. Al 100%, in alcuni casi sì. Esistono le cosiddette bugie bianche, no? Che servono a filtrare dati della realtà. Questo per evitare di mettere ancora più in crisi l'altro e peggiorare le cose. E quindi tenere a mente che sicuramente se una persona molto cara e molto vicina si tenderà a portarlo verso la verità. Ovviamente facendo una valutazione del contesto, come abbiamo detto, ascoltando i bisogni della persona interessata. Quindi mettetevi nei panni degli altri per poi portarla eventualmente alla verità, sempre con delicatezza e tatto, e non è mai abbastanza. Il concetto della bugia bianca è veramente molto affascinante. Vorremmo, lo esploreremo magari in un'altra puntata, che ne dici, Nicoletta? Sarà una puntata bellissima. Esatto. Dottoressa Torti, grazie. Grazie molte. Buona giornata. Grazie a voi. Buona Volevo giornata. Ritornare per un attimo all'avvocato Cirla, perché a parte le bugie bianche mi viene in mente quelle condomino che magari non fa una corretta raccolta differenziata e mette tutta la spazzatura in un unico contenitore e fa pagare a tutto il condominio delle gran multe. In quel caso, se io lo penso, che cosa posso fare? Questa è una soffiata legittima, direi, più che legittima, perché tutelo me stesso come condomino, nel senso che le multe oggi fioccano come la neve, quindi se il condomino ancora non ha capito che deve osservare le regole della spazzatura, dei rifiuti differenziati, ben venga la spiata all'amministratore, affinché questi possa poi in assemblea porre sulla testa sua la multa. Quindi, sì, ma la dottoressa Torti invece ci suggerirebbe invece che andare subito dall'amministratore di andare dal condomino. Vede, perché lei fa l'avvocato. Lo so, però magari se è già stato sollecitato 2 o 3 volte, magari avrà incontrato qualche altra volta qualche condomino che invece si comporta bene e lui non è stato minimamente stimolato da questo atteggiamento. Siamo partiti con la trasmissione dicendo che l'educazione è la regola primaria nel condominio, no? È il rispetto altrui. Siamo già oltre, quindi siamo già alla situazione patologica, certo. Chi sentiamo? 800 24 00 24, dottor Gargiulo, mandimi. Faccia un fischio, lei c'è, vero? Io ci sono. Pronti. Che tranquillità, questo dottor Gargiulo. Cosimo, buongiorno, da Pescara, benvenuto. Buongiorno, senta, volevo fare una domanda. È di cattivo umore oggi, Cosimo, lei? Perché, poverino? No, ci sono in macchina. Ah, vabbè. Bravo, un bel sorriso. A proposito di macchina, domani parleremo di guida, assicurazioni, attenzione. Quindi cominciate già a riflettere sul vostro stile di guida, come guidate, appunto la vostra postura, e mettete anche in testa questo nuovo concetto che fra un po' sparirà il contrassegno dell'assicurazione. Quindi tante novità per domani, però... Andiamo all'oggi. Più utile. Dai, benissimo. No, dicevo, volevo sapere se è vero che gli antinfiammatori, gli antidolorifici fanno il contrasto tra di loro della pressione. e se fosse così, cos'altro va incontrarsi con la pillola della pressione? Certo, grazie Cosimo, buona giornata. Dottor Gargiulo, ci sono dei farmaci che tra loro non vanno d'accordo? È una domanda interessante, infatti ci sono gli antinfiammatori, lo abbiamo scoperto con i nuovi, quei famosi inibitori della COX-2, l'abbiamo scoperto con questi, ma il discorso si allarga un po' a tutti gli antinfiammatori. Chi soffre di pressione alta non dovrebbe fare un uso prolungato di antinfiammatori e se li usa per un breve periodo dovrebbe controllare in quel periodo più spesso la pressione. Ancora contrasta con la pressione l'uso del cortisone, è uno dei nemici principali, aumenta la pressione, aumenta la glicemia, quindi le persone che hanno la pressione alta devono anche lì usare il cortisone con moderazione ed eventualmente cambiare la terapia adeguandola a queste novità. E altre cose che vanno in contrasto con la pressione dal punto di vista farmacologico sono tutti quei farmaci che stringono le arterie, quindi i vasocostrittori cosiddetti, anche se usati localmente, ad esempio l'atropina può provocare un aumento di pressione, e prodotti che una volta venivano usati, gli estratti di corteccia surrenale, che grazie a Dio non si usano più, tutte cose che andavano in contrasto con il farmaco della pressione. Ancora, ricordiamoci che però ci sono farmaci che la abbassano la pressione, non dimentichiamoci che i prodotti che usiamo per la prostata, quelli gli alfalitici cosiddetti, abbassano la pressione, quindi se usiamo prodotti per la pressione dobbiamo controllarla per evitare di avere un effetto dannoso. Anche i farmaci per la disfunzione erettile abbassano la pressione. E con questa, ecco, e i maschi sono tranquilli, a posto. Vai, Deborah. No, allora, c'è un ascoltatore che adesso deve intervenire. Ce n'è un'altra invece, Francesca, che non facciamo in tempo a sentire, ma che poneva, avvocato Cirla, questa questione che è molto delicata e ci servirebbe tutta una puntata. Segnala Francesca da Livorno che ci sono due ragazze che si prostituiscono due piani sopra al suo appartamento. Lei che cosa può fare? Telecamere? A me viene da dire, quello che succede dentro a quell'appartamento sono affatti di queste due ragazze. Ci mancherebbe anche ma la quello che succede interna. Fuori, certo, se c'è però un gran bel via vai di persone magari poco raccomandabili, allora, quale allora si deve fa? Intervenire l'amministratore, questo sì che vale come privacy anche del condominio a questo difficile punto. Però dimostrarlo, perché uno potrebbe dire io ho tanti amici, esatto, non è che allora però andiamo a parlare di spese condominiali, di addebito per esempio, delle spese di gestione, dell'uso delle scale, dell'ascensore, e il problema va a progressione geometrica, si alza, no? Quindi attenzione, perché la prostituzione in condominio è un fenomeno che è dibattuto, è reale, non poco, però rientrano le regole di morale spesso richiamate nei regolamenti di condominio. Non lo facciamo intervenire, ma la leggo io la domanda di Sergio da Novi Ligure. Per installare le telecamere c'è bisogno della maggioranza di tutti i condomini? Di che tipo di maggioranza c'è bisogno? Qui è intervenuto il legislatore nuovo, diciamo, dicendo che è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea. Ah, ecco. E almeno 500 millesimi, metà del valore millesimale. Benissimo, grazie. Nicoletta, ce la facciamo l'ultima? Forse no. No, salutiamo Giulio. Magari da Verona, la possiamo leggere. Che ci chiede se i limoni aiutano e sono utili per l'ipertensione. Lui ne mangia un chilo a settimana. Ma la vitamina C non gli manca di certo. Allora, salutiamoci, dottor Gargiulo. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie Nicoletta, grazie Deborah. Buona giornata. Un saluto anche a lei. Arrivederci. Avvocato Cirla, sente che l'ha salutato il dottor Gargiulo. Grazie molte, grazie anche a lei, a presto per grazie dibattere i temi di condominio che scatenano sempre moltissimo i nostri ascoltatori, insieme alla pressione a tutte le spie del corpo. Nicoletta, noi ci vediamo domani. Ci vediamo domani, io però sarò da sola, lo anticipiamo già, ma con una sorpresa. Buona giornata a tutti. A voi, buona giornata. Cuore e denari.